Ambiente e Salute, in collaborazione con ISDE Italia, Associazione Medici per l'Ambiente. Bentrovata alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto per questo secondo incontro su Ambiente e Salute in collaborazione con l'ISDE. La volta scorsa il dottor Cavasin ha tratteggiato da par suo una panoramica dei vari argomenti che saranno trattati. E abbiamo ancora lui questa volta per un approfondimento del concetto di salute e del concetto di fattore di rischio. Ricordiamo che la trasmissione va in onda ogni giovedì alle 11.10 e in replica alle 18.35 su Blu Radio Veneto. Ben trovato, dottor Cavasin. Grazie. Per anche l'importante stimolo di riflessione che ci viene concesso. E oggi appunto andiamo a declinare alcune definizioni che ritengo siano importanti perché saranno successivamente oggetto di approfondimento da quelli che mi seguiranno, dai colleghi che seguiranno e che tratteranno delle specifiche tematiche. Ed è un po', se si vuole, anche una riflessione importante che l'ISDE ogni volta che viene chiamata dai vari comitati intende promuovere, proprio per la consapevolezza che il cittadino deve sviluppare a questo riguardo. Ed è appunto, partiamo dal concetto di salute. Cosa intendiamo noi oggi per salute? Non viene solo intesa come assenza di malattie. La salute, l'Organizzazione Mondiale della Sanità l'ha definita come il completo benessere psicofisico, sociale dell'uomo. Io direi anche giuridico, tra le altre cose. Questo livello, questa asticella è piuttosto alta da raggiungere, questo completo benessere psicofisico e sociale, ma ci fa già comprendere che siamo in presenza di diverse componenti che agiscono sulla salute. E quindi su queste componenti anche il fattore ambiente è molto importante, che non deve essere inteso soltanto appunto come l'ambiente in cui vive la persona, ma anche l'ambiente sociale in cui questa interagisce. Giusta sottolineatura. Questo è il concetto. Poi tra l'altro siamo ancora vincolati a pensare alle malattie come malattie prodotte da cause ben definite e evidenziabili. E su questo ci può essere di aiuto il considerare la malattia come per esempio l'influenza, che ha una causa ben specifica che è data dal virus dell'influenza, oltre che anche possibilmente esclusivamente da questi. E la malattia oggi è anche un alterato equilibrio dell'organismo che può essere quasi sempre causato da più fattori. Quindi stiamo passando da quello che è una situazione piuttosto circoscritta e ben tracciabile, quella della malattia infettiva degli inizi del secolo scorso, a quelle che sono invece un gran gruppo di malattie che sono le più oggi frequenti nella popolazione, che sono le malattie croniche, quelle malattie cioè che si manifestano col decorso del tempo e quindi che presentano diversi sintomi a seconda dei fattori di rischio che agiscono su queste. E quindi proprio in base a questo noi abbiamo un altro concetto che è molto importante da dire, da definire, che è quello di fattore di rischio. Che cos'è il fattore di rischio? Il fattore di rischio è quella situazione che precede l'evento e che è collegato con l'evento in maniera che noi diciamo statisticamente significativa. Cioè, laddove c'è questo fattore presente, c'è quasi assoluta certezza che poi da questo fattore ne discenda una certa conseguenza, in questo caso naturalmente per la salute dell'individuo. Ora, nel caso nostro, che si diceva prima, delle malattie croniche, noi abbiamo a che fare con diversi fattori di rischio. Quindi non abbiamo più quella situazione di malattia, diciamo, semplice, diretta, causata da un germe unico, come poteva essere la TBC di anni che furono, oppure dell'influenza, e abbiamo invece forme come l'ipertensione arteriosa, il diabete, l'obesità, le neoplasie, che sono dovute a più fattori che entrano in azione e che precedono l'evento. Tra questi fattori di rischio ci sono appunto i fattori ambientali, i fattori inquinanti che agiscono come concause nella determinazione di queste malattie. E qui è il ruolo che ci sentiamo di svolgere come medici, come ricercatori, come professionisti, perché riteniamo che se si va a individuare veramente questi fattori di rischio si può mettere in campo quella che è un'azione importantissima e che è l'azione di prevenzione, che cerca in questo modo di contrastare o di risolvere o di togliere quel fattore di rischio in maniera tale che non si arrivi allo sviluppo o al manifestarsi della malattia. Quindi per noi, per l'ISDE, ma per tutti i medici, per i ricercatori, ma per tutti i professionisti, il concetto di prevenzione è un concetto basilare. Ora, nell'ambito specifico della medicina, noi abbiamo a che fare con quattro diverse tipologie di prevenzione. Abbiamo una prevenzione primaria, una prevenzione secondaria, una prevenzione terziaria e una prevenzione quaternaria, quest'ultima che quasi sempre non viene citata o comunque non si pensa che esista. Allora, andando proprio per soldoni, diciamo, la prevenzione primaria, come si diceva, è quella che si fa prima che si crei o comunque si realizzi o si determini l'evento. Pensiamo per esempio alle vaccinazioni. Le vaccinazioni sono o costituiscono il più eclatante esempio di prevenzione primaria. Ed è molto importante che teniamo conto di questo. Servono per evitare lo svilupparsi, il diffondersi di malattie pericolosissime per la salute dell'uomo in tutte le sue epoche. Argomento scottante, come sappiamo. Esatto. La prevenzione secondaria invece è quella che viene in sostanza ad essere sviluppata per intercettare se nell'organismo umano è presente una lesione che potrebbe evolvere in una lesione molto più seria. È quello che si fa quando si parla degli screening per malattia. Per esempio quello che si fa per il colon retto, la ricerca del sangue occulto, quindi nelle feci, oppure la mammografia, oppure il pap test, sono esempi eclatanti che costituiscono dei notevoli presidi di prevenzione secondaria e che stanno veramente a indicare l'importante livello che è raggiunto proprio in questi settori proprio dall'igiene pubblica e dalla sanità pubblica. Poi abbiamo, come si è detto, la prevenzione terziaria. La prevenzione terziaria serve per evitare che ci siano delle ricadute e quindi è la prevenzione riabilitativa, quella che produce o che cerca di far sì che le risorse presenti nell'organismo vengano ulteriormente stimolate perché si vada alla ripresa, al recupero delle eventuali lesioni che sono state provocate dalle malattie. Se pensiamo ai traumatismi, alle forme post-ictali, dove c'è bisogno di una riabilitazione continua per far recuperare alla persona le sue funzioni che aveva in parte perduto, per la sua anche autonomia. La prevenzione quaternaria, e questa è molto interessante, ed è quella che praticamente viene poco, come dicevo prima, ricordata, ed è quella che ci dice di non approfittare delle soluzioni tecnologiche che oggi la scienza mette a disposizione, perché è una situazione questa che può provocare un danno economico al sistema, in questo caso proprio del sociale, per cui si vanno a consumare delle risorse laddove queste non sono necessarie, quindi il ricorso per esempio agli esami inutili, ai farmaci inutili e tutto quello che insomma è collegato con questo. Altro punto di scottante attualità. Allora ci fermiamo un attimo per un brano musicale. Noi non ci saremo dei nomadi. Vedremo soltanto una sfera di fuoco, più grande del sole, più vasta del mondo. Nemmeno un grido risuonerà e catene di monti coperte di neve saranno confine a foreste di abeti. Mano d'uomo le toccherà e solo il silenzio come un sudario si stenderà fra il cielo e la terra per mille secoli almeno, ma noi non ci saremo, noi non ci saremo. E il vento che viene dal mare intonerà un canto fra mille rovine, fra le macerie delle città, tra case e palazzi, che lento il tempo screpolerà fra macchine e strade, risorgerà il mondo nuovo. Ci saremo, noi non ci saremo. E dai boschi e dal mare ritorna la vita, e ancora la terra sarà popolata. Tra notti e giorni il sole fa le mille stagioni, ancora il mondo percorrerà gli spazi di sempre per mille secoli almeno, ma noi non ci saremo, noi non ci saremo. Ed eccoci di nuovo in studio con il dottor Cavasin, al quale naturalmente cediamo la parola per completare questi suoi concetti di prevenzione, di fattori di rischio e altre cose che adesso ci dirà. Grazie e bentrovati. Ci diceva del principio di precauzione e del principio di responsabilità, che sono gli altri due principi che ci preme come ISDE sottolineare, perché riteniamo fondamentali anche proprio per capire l'azione che l'ISDE porta avanti nelle sue varie azioni, nelle sue varie attività. Non sono principi sui quali ci si può in qualche modo divincolare, perché sono principi questi che sono anche stabiliti da un consensus generale, quindi mondiale, dove per quanto riguarda proprio le questioni relative agli effetti dell'inquinamento ambientale sulla salute dell'uomo, questi sono ritenuti come principi ispiratori. Quindi da questi principi ne dovrebbero discendere delle azioni da parte degli stati membri che hanno sottoscritto questi principi. Delle linee guida, quindi, diciamo. Ecco. Una sorta di linee guida. Ci sono vari pronunciamenti. Il primo nel 1990, nella terza conferenza internazionale sulla protezione del mare del Nord, e l'altro che è quella della dichiarazione di Rio di 1992. In sostanza, queste che cosa dicono a proposito del principio di precauzione? Dicono che i governi firmatari debbono applicare il principio di precauzione, vale a dire adottare misure volte a evitare gli impatti potenzialmente nocivi di sostanze che sono persistenti, tossiche e suscettibili di accumulazione biologica anche quando non vi sono prove scientifiche dell'esistenza di un nesso causale tra le emissioni e gli effetti. Molto importante. Questo ci fa riconnettere a quello che si diceva la volta precedente in relazione al principio, al concetto di prevenzione. Se dobbiamo svolgere una prevenzione e vogliamo che questa sia attiva, dobbiamo fare prima qualcosa, prima che avvenga l'accidente o comunque la conseguenza sull'organismo umano. E questo l'azione non può essere fatta solo quando hai l'evidenza scientifica che quel fattore di rischio è stato veramente causa di un effetto dannoso sull'organismo umano, perché potrebbe essere quello che ne consegue un danno talmente importante sulla salute a cui non puoi neanche più porre rimedio. Pensa per esempio al nucleare. Quindi certo, dobbiamo fare un ragionamento che probabilistico sia, è giusto, che sia fatto a monte e che serva proprio per delineare un'azione che deve essere comunque fatta proprio per evitare che si possa succedere quanto invece non deve succedere. E questo lo si deve fare anche se non hai l'evidenza scientifica che quel fattore di rischio è effettivamente correlato con l'evento. E su questo si sta molto discutendo. Ogni volta che ci troviamo di fronte a grandi temi di inquinamento ambientale, cellulari per esempio, quindi le onde elettromagnetiche, ci troviamo di fronte proprio a quella che è una situazione dove si viene sempre a dire: ma non ci sono sforamenti o non vengono alterati o non c'è distorsione rispetto a quelli che sono i limiti massimi consentiti dalla legge. Questo certamente serve ed è importante che sia così, però bisogna sempre contestualizzare questo tipo di osservazione, perché laddove nella popolazione ci sono particolari situazioni di compromissione non solo ambientale ma anche proprio della salute della popolazione stessa, anche questi cosiddetti limiti di legge debbono essere reinterpretati. Per esempio, per il bambino non esiste un limite di concentrazione che sia un limite accettabile, perché il bambino è un percorso, è un progetto, è una realtà, è una creatura in formazione, in divenire, per cui qualsiasi piccola sostanza, quando introdotta in questo organismo, sia in età prenatale, natale e postnatale, possa effettivamente essere causa di danno irreversibile. E il principio di responsabilità che cos'è? Lo sviluppo tecnologico ha esteso la responsabilità dell'agire umano alla natura e alle generazioni future, per cui un'azione che viene iniziata in un qualsiasi punto della Terra o della realtà locale, diciamo, tanto per non andare troppo lontano, per esempio emissioni di gas oppure, non so, i falò, i fuochi all'aperto, o una fuga radioattive, per dire, hanno conseguenze sull'ecosistema e quindi anche sulla comunità e più vasta, che può essere anche l'umanità, che sono durevoli nel tempo e che coinvolgono tutti. E quindi su questo bisogna che ciascuno faccia la sua riflessione e tenga presente a che cosa va incontro con la sua azione, quindi principio di responsabilità. Quindi chiaramente non si tratta di dare addosso evidentemente la croce ad altri, ma di capire che cosa possiamo fare noi per limitare questi danni e per avere un ambiente più sano, sbaglio? Certo, è la consapevolezza che tutti noi siamo responsabili e che quindi ognuno di noi ha delle azioni su questo da dover svolgere. Noi ringraziamo il dottor Cavasin per questa dotta esposizione, per questa appassionata, diciamo, difesa della salute in generale, della salute di tutti noi. Vi ringrazio veramente di cuore. E diamo appuntamento alla prossima settimana, alla stessa ora, sulle frequenze di 88.70, 94.60 in FM, in Blu Radio Veneto. Naturalmente abbiamo disponibile al seguito il podcast della trasmissione. Vi ringraziamo per la vostra attenzione e alla prossima trasmissione. Ambiente e Salute, in collaborazione con ISDE Italia, Associazione Medici per l'Ambiente.